Radio 24 Reportage. Musulmani a Milano, la preghiera in spazi provvisori in attesa di una moschea, di Valeria Grandi. Sono 1.600.000 i musulmani in Italia, di cui 120.000 vivono a Milano. Una comunità senza una moschea ufficiale, che si riunisce in una ventina di sale di preghiera provvisorie e spesso non idonee. Il comune di Milano ha indetto un bando e due associazioni islamiche si sono viste assegnare due aree. Ma l'iter è bloccato e i fatti di Parigi potrebbero rendere tutto più complicato. C'è chi auspica la nascita di moschee riconosciute anche per un maggiore controllo di chi le frequenta e chi invece non vuole incoraggiare la diffusione della cultura islamica. Una questione aperta anche perché lo Stato italiano non ha mai stipulato un'intesa con i rappresentanti delle comunità musulmane e ogni città decide per sé, mi spiega Yahya Abdalahad Zanolo della Coreis, organizzazione che riunisce cittadini italiani musulmani dagli anni 90. Lo incontra un convegno sull'Islam organizzato dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. L'Italia è l'unico paese forse al mondo dove l'Islam è la seconda religione, per numero diciamo, e dove non c'è nessun tipo di riconoscimento, cosa che invece vediamo in tutti gli altri stati europei. Qualsiasi attività che vada dalla creazione dei luoghi di culto, alla formazione degli imam, alle mense delle scuole, degli ospedali, delle carceri, alle feste, qualsiasi cosa è completamente lasciata alla buona volontà dei singoli, delle associazioni o delle amministrazioni locali, cosa che chiaramente crea un humus anche di incertezza dove qualcuno purtroppo approfitta e si inserisce. Quindi è nel bene e nell'interesse di entrambe le parti cercare di trovare un accordo su questa base, insomma. Ma come si sono organizzate le comunità islamiche a Milano fino a oggi? Lo chiedo ad Abdelhamid Shahari, presidente dell'Istituto Culturale Islamico di Viale Jenner. Si inventano, diciamo, luoghi di culto ad hoc, che non sono adatti ad essere luoghi di culto, come capannoni, oppure garage, oppure sotterranei e così via. Quei luoghi non sono adatti né come sicurezza per le persone, né come sicurezza per quelle vicine. E ma perché non potevano scegliere dei luoghi, diciamo, che potessero essere poi più facilmente convertibili? Perché la comunità è nuova, diciamo, di quasi 20-30 anni fa. E la gente che fa queste iniziative è tutta volontaria, no? Sono i ragazzi che si mettono insieme e prendono la cosa che costa meno. Perciò si fa un'associazione culturale, associazione, quello che vuoi tu, e poi va a affittare un luogo per pregare o per riunirsi, diciamo. Però i numeri sono tanti e i luoghi sono quelli che sono. Regolarizzare le sale di preghiera o costruire nuove moschee, lo Stato dovrebbe quindi definire un regolamento con le comunità islamiche, che però non hanno un'unica rappresentanza. E qui diventa fondamentale il ruolo delle associazioni che devono interfacciarsi con le istituzioni. Ancora Zanolo. La Costituzione italiana prevede la stipula di intese giuridiche con le comunità islamiche. La cosa importante è che ci sia una scelta intelligente degli interlocutori, secondo dei canoni di affidabilità, preparazione, conoscenza del contesto europeo, italiano, preparazione dottrinale. Questo è molto importante affinché non ci siano infiltrazioni di carattere ideologico. Zanolo mi invita a visitare la sede della Coreis in Via Meda, l'unica sala di preghiera a Milano che ha ricevuto dal comune il riconoscimento a luogo di culto. È un sabato in cui si riuniscono alcuni rappresentanti dell'associazione. La preghiera si svolge in un locale al piano terra con l'accesso dal cortile interno di un palazzo. Nel seminterrato c'è la sede dell'associazione, ci sediamo intorno a un tavolo. Possono fare le comunità islamiche per arrivare a un accordo con lo Stato italiano e quindi a una relazione più semplice con le istituzioni locali? Mi risponde Idris Abdelrazak Bergia, responsabile Coreis in Piemonte. L'ebraismo è strutturato nello stesso modo dell'Islam, eppure esiste un UCEI, come potrebbe esistere un qualcosa di simile per il mondo islamico. L'importante è trovare la volontà di arrivare a questo. Nel momento in cui si arriva a questo, allora poi, come è successo, non tutte le comunità ebraiche fanno parte dell'UCEI. una piccola minoranza non ha aderito, ma questo però tutti quelli che hanno aderito hanno delle regole comuni e c'è un rapporto pattizio nei confronti dello Stato. Finché non si arriva a questo diventa molto difficile costruire una moschea, gestire dei luoghi di culto, gestire degli imam trasparenti, gestire il culto in una maniera che sia anche, come dire, sicuramente osservante delle leggi dello Stato in cui è. Nei confronti dell'Islam ci sono timori e pregiudizi che spesso bloccano la politica e le istituzioni. Per questo le comunità preferiscono costituire un centro culturale anziché avviare l'iter per istituire un luogo di culto, spiega Aisha Lazzarini del Comitato Giuridico. Il problema è un problema forse di, da una parte, maturazione sia da parte, diciamo, della società, delle istituzioni, che della comunità islamica nel voler portare poi a conclusione questo processo di integrazione. Attualmente pochissimi sono i luoghi di culto che hanno richiesto riconoscimento con destinazione specifica luogo di culto, perché purtroppo si incontrano molti ostacoli, magari nella burocrazia spicciola, poiché non ci sono veri e propri ostacoli in quella che è la legislazione nazionale o la Costituzione. Nel momento in cui non c'è una regolamentazione giuridica, ci sarà comunque un assestamento di fatto, ma se non è guidato non è detto che avvenga nel migliore dei modi. Regolarizzare sarebbe anche una forma di controllo, aggiunge Mariam Turrini, responsabile della sezione giovani. Se in effetti venissero riconosciuti dei luoghi di culto che avessero anche una legittimità a livello costituzionale, sarebbe forse più difficile che si possano insediare delle forme di radicalismo o di integralismo, perché sarebbero più controllate. Però dal momento che invece la situazione è un po' così lasciata, diciamo, senza un ordine, è maggiore, diciamo, questo pericolo in realtà. Il bando chiuso ad agosto, dopo un percorso di 4 anni, il Comune di Milano ha messo a disposizione 3 aree per la costruzione di luoghi di culto, 2 delle quali, l'ex Palasharp di via Sant'Elia e quella di via Esterle, sono state assegnate ad associazioni islamiche. Il percorso però è tutto in salita. Gli spazi devono ancora superare la votazione del Consiglio Comunale sul cambio della destinazione d'uso. Poi sarà avviata un'istruttoria come ulteriore verifica dei requisiti delle associazioni vincitrici. Pier Francesco Maiorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano. Abbiamo fatto una delibera, la prima in Italia, di messa a disposizione di luoghi pubblici per aree di culto. Cosa dobbiamo fare di più? Di certo non possiamo fargli fare 30 luoghi di culto in qualche mese, cioè non, nel senso, già tanto se riusciamo a farti questo tipo di azione, e siamo i primi ad aver inaugurato questa strada. Dopodiché sono anche convinto del fatto che poi se si apre una moschea in quello che è un magazzino in un condominio, una moschea o comunque, diciamo, un luogo di preghiera, questa va chiusa se crea problemi al condominio. Io su questo non ho dubbi. La direzione è quella giusta, secondo Reas Sayed del CAIM, Coordinamento Associazioni Islamiche, ma a frenare c'è un altro ostacolo. Un percorso che va nella giusta direzione, una mappatura di quelle che sono le realtà islamiche presenti sul territorio, seguite da un'offerta che è determinata dall'individuazione di alcune aree, di cui alcune possono essere destinate alla comunità islamica per costruire luoghi di culto formalmente riconosciuti. Su questa fase, come dire, secondaria è intervenuta in gamba tesa la Regione Lombardia, emanando una normativa altamente discriminatoria. Questo in realtà è importante segnalarlo, perché potrebbe avere l'effetto di rallentare tutto. E rallentare di altre un anno e mezzo un percorso già così difficoltoso, lento, è grave. Con l'approvazione a gennaio scorso delle modifiche alla legge 12 sono stati imposti vincoli strettissimi alla costituzione dei luoghi di culto, e finché questa legge sarà in vigore è difficile che la situazione si sblocchi, sia per la costituzione di nuovi luoghi di culto sia per la regolarizzazione delle sale di preghiera presenti. Me lo conferma la responsabile a Milano per l'immigrazione, Daniela Pistillo. Ci sono varie situazioni in cui quello che manca è sostanzialmente il pezzo di carta bollata. Ci sono altre situazioni che non sono regolarizzabili, perché appunto sono scantinati. Il problema è un altro, che comunque sulla base delle modifiche che sono state fatte di recente alla legge 12 è praticamente tutto bloccato, perché sono state messe una serie tale di vincoli amministrativi, urbanistici, eccetera, che rendono di fatto non in questo momento, cioè fin tanto che la legge 12 sarà ancora in vigore, noi il governo l'ha impugnata, che verrà dichiarata anticostituzionale, non ho il minimo dubbio. Chiaramente, intanto che quella legge è in vigore, quindi con questa legge praticamente nessun posto attualmente utilizzato per pregare dai musulmani può essere regolarizzato. Insomma, a Milano per avere a disposizione nuovi luoghi di culto l'attesa è ancora lunga e quelli provvisori sarebbero da chiudere. Quel che è certo è che da qualche parte le migliaia di musulmani continueranno a pregare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.